La crisi si può senz'altro dire è la grande protagonista di quest'anno e non solo, ma come ha cambiato i nostri consumi, le nostre abitudini, i nostri valori. Parliamone con tanti ospiti in questa puntata speciale di Non ci sono più le mezze stagioni, sabato alle 14 su Radio 24 e da Roberta Giordano comunque sia, buon Natale. Anche sul canale 700 di Sky.